con Serena di Balia dal Collare per presentare l'iniziativa Lo Scarpone Resistente a Fontenova domenica 19 settembre 2021. Ben trovata. Ciao, grazie a voi. Partiamo con la realtà Balia dal Collare. Di cosa si tratta per chi non la conoscesse? Siamo un gruppo di attivisti e attiviste della provincia di Rieti, ci siamo attivati contro il progetto TSM, poi diventato TSM2, di costruzione di impianti di sci da risalita sul Monte Serpignano. Siamo l'ultima delle realtà che si sono unite al grande castello delle associazioni, no, TSM, che prevede appunto associazioni più formali come il WWF, il CAI, Italia Nostra ed altre realtà. E noi insomma ci siamo aggiunti l'anno scorso come gruppo di più giovani con delle particolarità rispetto alle vertenze legali portate avanti in questo anno. Il progetto Terminillo Stazione Montana, c'è anche la parte 2, ecco, ci parli un po' di cosa è successo dall'1 al 2? Sì, in estrema sintesi il TSM era un progetto proposto tra il 2014 e il 2015 che è stato poi ritirato al momento dell'arrivo sul tavolo della regione perché è insostenibile dal punto di vista ambientale ed anche economico. Nel 2019 la TSM e la provincia di Rieti ripropongono questo progetto senza sostanziali modifiche, nonostante appunto ci fossero degli aspetti assolutamente incompatibili con la valutazione di impatto ambientale. Diciamo che poi l'iter, come già avevamo spiegato in altre dirette, è stato un po' lungo, ad ogni modo sono state apportate alcune modifiche, poi è stato valutato tra il 2020 e il 2021, ha superato sia la valutazione di impatto ambientale che la valutazione di incidenza e a quel punto le associazioni hanno presentato un ricorso al TAR, mentre noi come Balia dal Collare abbiamo lavorato insieme a Salviamo l'Orso, che è stata l'associazione che ha fatto un po' da interfaccia istituzionale con la procura e il commissario agli usi civici, abbiamo appunto fatto un esposto sul tema degli usi civici, cioè dei demani collettivi, perché abbiamo scoperto che l'intera area del progetto è un'area su cui gravano appunto questi usi civici da un antico istituto giuridico. E detto molto semplicemente per chi non mastica il tema, perché è un argomento complesso, in realtà sono terreni su cui anticamente le comunità esercitavano una loro gestione e conservazione dell'ambiente. E dunque c'è un iter che le istituzioni devono portare avanti per usufruire di quei terreni. Dato che abbiamo scoperto che appunto non sono state portate avanti tutte le pratiche necessarie per il famoso mutamento di destinazione d'uso dei terreni, abbiamo un po' bloccato quella che è la terza conferenza dei servizi. E quindi c'è stata un'udienza di fronte al commissario agli usi civici. Il 22 novembre avremo la seconda udienza e abbiamo dovuto introdurre altre questioni, abbiamo dovuto anche convocare la TSM, che è la ditta progettistica, appunto propone il progetto, e il commissario valuterà se appunto dovrà procedere con il sequestro dei terreni ai comuni, perché il grande punto su cui noi stiamo lavorando è appunto che le amministrazioni comunali dovrebbero mettersi a tutela di quelli che sono i demani collettivi, e in questo caso i comuni hanno agito come se i terreni fossero di loro proprietà. E dunque il commissario e la regione hanno costituito un bando proprio per chiamare i residenti come civis nativi a esprimere un loro interesse a tutela di questi terreni, di questi beni comunitari. E dunque siamo all'interno di questo iter giuridico. Passiamo all'iniziativa Lo Scarpone Resistente, che prevede tra l'altro la raccolta di fondi per le spese legali e un'assemblea pubblica. Sì, noi faremo questa camminata anche a un anno dalla prima camminata che come Balia abbiamo organizzato l'anno scorso, era il 13 settembre, che avevamo portato un po' di realtà e molte persone singole, insomma, della provincia, anche da Roma e da altre regioni, a camminare appunto sul Monte Terminillo in quei terreni che appunto verrebbero distrutti. Abbiamo deciso di riproporre una camminata anche perché l'inverno, per le limitazioni legate al Covid, abbiamo fatto delle piccole camminate dovendo sempre dire di no e facendo dei piccoli gruppi. Ora che siamo a settembre, a un anno appunto dalla prima iniziativa, abbiamo deciso di accompagnare tutti e tutte coloro i quali vorranno venire con noi. Faremo questa camminata, partiremo da Fontenova nella Vallonina. Do questa informazione che è legata appunto a chi arriverà da Roma o da Rieti, cioè che la strada per arrivare a Fontenova è chiusa, quindi si deve passare da Leonessa. Poi chiaramente scrivendoci noi diamo tutte le informazioni e anche per chi verrà da fuori abbiamo previsto la possibilità di pernottare la sera prima, sempre gratuitamente, in una ospitalità diffusa che noi appunto mettiamo a disposizione, sia con tende che in appartamento. Faremo dunque questa camminata, ci incontreremo alle 9:30 a Fontenova, partiremo alle 10 e faremo un percorso che ci permetterà di vedere appunto dall'alto l'intera area interessata dal progetto. Passeremo all'interno del bosco della Vallonnina, dove c'è la famosa faggeta vetusta che verrebbe completamente distrutta dal TSM2. Poi torneremo a Fontenova, faremo un pranzo al sacco e un caffè autogestito che organizziamo noi, chiaramente a sottoscrizione, proprio perché noi, non essendo un'associazione, abbiamo dovuto affrontare delle spese legali, non abbiamo fondi o donazioni come associazione, dunque ci muoviamo sempre attraverso l'autofinanziamento. Faremo questo caffè autogestito, come lo chiamiamo noi, e poi ci troveremo appunto in un momento assembleare con altre realtà presenti in Appennino che quest'anno abbiamo avuto modo di conoscere, con cui abbiamo condiviso anche lotte, ma anche e soprattutto nuove idee rispetto a come riabitare l'Appennino. Quindi ci troveremo per un momento di assemblea e anche un momento più costruttivo per iniziare a ragionare sul come potremmo tutelare il bosco e anche gestirlo qualora si riuscisse a riattivare una comunanza agraria o cooperativa di comunità, sempre in base a quello che è l'istituto giuridico degli usi civici. Per cui è un momento di ricorrenza, un momento importante, ma soprattutto è un momento di costruzione, perché il nostro obiettivo non è solo dire no, spesso ci si accusa di essere quelli del no, come sempre accade, in realtà noi vorremmo immaginare un altro modo di vivere e abitare la montagna, quindi sarà gradita e saremo contenti e contente se la partecipazione sarà numerosa, perché per noi è importante condividerlo e anche diffondere un po' la nostra idea di montagna. Quindi vi aspettiamo il 19 settembre a Fontenova. C'è un numero di telefono di riferimento per qualsiasi informazione e poi la mail che vale dal collare @gmail.com. Chiediamo ai partecipanti non di prenotarci, perché non prenderemo prenotazioni, ma di aderire per permetterci di avere un'idea dei numeri e quindi poter anche organizzare nel migliore dei modi. L'iniziativa Lo Scarpone Resistente a Fontenova, domenica 19 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Serena Di Balia dal Collare. Grazie a voi. A presto. Thank you.

è un festival che quest'anno ancora di più si propone come un dispositivo partecipativo e relazionale. Quanti sono gli artisti e le artiste coinvolte per questa edizione? Più di 30 spettacoli, più di 20 compagnie di artisti che potrete vedere in azione. Iniziamo il 17 settembre a Roma, siamo per 7 giorni, quindi il primo 17, 18, 19, quindi 3 giorni, e poi la settimana successiva 23, 24, 25 settembre, 25, 26 settembre. Mentre a Tossi a Rieti siamo il 2 ottobre. E partiamo il 17 con Antonio Rezza alle 9. Proprio all'interno di questo ragionamento, dicevamo, del dispositivo partecipativo, Antonio Rezza presenta questa performance che è Asta al buio, che è una vera proprio Asta, con un banditore di eccezione che è Antonio Rezza. E alle 10:30 invece c'è Carlo Massari, CC Company, un danzatore coreografo, che presenta in prima nazionale una creazione in esclusiva poi per attraversamenti multipli, che è Mashup. E anche qui, già nella prima giornata, un po' c'è questo segno di teatro, danza, e poi alle 8 in poi c'è questa installazione diffusa di QR code letterari, che in realtà sembra creata da Progetto Demoni e Ultimi Fuochi Teatro, si chiama La Rivoluzione dei Libri. Negli spazi del Quadraro saranno disseminati e il pubblico può seguire questa installazione attraverso una mappa che verrà data all'infopoint che si trova a largo Spartaco del festival, e ci sono in vari punti del Quadraro appunto questi manifesti con dei QR code, e attraverso smartphone si può sentire dei pezzi di libri narrati da degli attori, da delle attrici, e questi libri sono stati scelti da gruppi di adolescenti in tutta Italia. Quindi è un progetto partecipativo focalizzato sulla letteratura che si intreccia con il teatro. E poi sempre venerdì 17, un'opera che teniamo molto, ci sarà l'inaugurazione di un'opera di street art creata per il festival, che va a cambiare la visuale di Largo Spartaco, che è lo spazio dove si svolge gran parte degli spettacoli, ed è un'opera fatta da Boll, si chiama Rainbow, un'opera da abitare, e cambierà un po' lo skyline, diciamo così, della piazza. E ci interessava perché siamo in un posto, comunque un'isola pedonale che è nata da una riqualificazione urbana, ed è un nostro modo di dare un contributo alla rigenerazione degli spazi che il festival attraversa. Poi invece sabato 18 settembre, secondo giorno di attraversamenti multipli, partiamo dalle 18 con uno spettacolo di circo contemporaneo, una compagnia italo-francese, Carasoterra, che presenta Happiness, e anche quest'anno c'è una sezione dedicata ai kids, quindi alle nuovissime generazioni di spettatori, e uno appunto questo spettacolo del 18, e poi il 19 c'è uno spettacolo di un artista cileno, che è Mistral, che presenta uno spettacolo che si chiama Fidati di me, dove appunto il pubblico è chiamato a partecipare, e quindi anche qui all'interno di questo aggiornamento facciamo prima sulla relazione. Sabato 18 settembre c'è uno spettacolo concerto, anche questo particolare, creato per attraversamenti multipli, e in azione c'è Militantà degli Assalti Frontali insieme a Alessandro Pieravanti e Muro del Canto, e il titolo della parola è La mia arma, e chiaramente qui c'è un intreccio tra poetiche e musica e il percorso anche di questi due artisti. E l'anticipa dalle ore 20, in realtà che c'è anche il 17, una performance specifica è stata creata da noi, Maggio Trativo, in collaborazione insieme a Mondocane, che è una teleradio metropoli, che in realtà è un po' un cavallo di battaglia anche di attraversamenti multipli, che è una performance che intreccia la TV con la radio, con il reading, con la musica. E teleradio metropoli negli anni ha cambiato spesso le collaborazioni, ma ci ha accompagnato anche quando il festival sta nella sua stazione metropolitana, quindi è un po' una performance che cambia ogni anno ma che ci accompagna. Ci sarà il 17 e il 18 e la settimana successiva il 24 e 25, e questo è sabato 18. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire, certo, il programma? Allora, per seguire il programma c'è chiaramente il sito, che è attraversamentimulti.it, c'è la nostra pagina Facebook, Instagram, Twitter, quindi siamo abbastanza rintracciabili, e dove si trovano tutte le informazioni e la programmazione. Ricordo al pubblico, anche se lo sanno tutti, che si accede alle aree spettacolo con il Green Pass, e che chiaramente fino al svolgimento dei posti a disposizione. Attraversamenti multipli a Roma dal 17 al 26 settembre, a Toffia il 2 e 3 ottobre 2021. Saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo, direttrice artistica del festival. A presto! Grazie, vi aspettiamo ad Attraversamenti multipli. Con Simone Guerro, uno degli ideatori del progetto progetto stravagante Festival dei Paesaggi dal 9 al 19 settembre 2021. Ben trovato. Grazie, grazie mille e buongiorno a tutti. Ce ne parli? Questa è stata un'idea che è nata all'improvviso da un desiderio di condivisione e di sostenibilità tra amici che fanno teatro. Noi gestiamo un teatro nell'entroterra marchigiano, in un posto in cui è difficile andare a fare cultura perché la gente se ne va da questi posti piuttosto che arrivarci. Piano piano però questo posto l'abbiamo iniziato ad amare sempre di più perché si porta dentro una storia. Già solo arrivarci è una storia, attraversare un paesaggio, e quindi abbiamo pensato di dedicare un festival proprio al paesaggio invece che soltanto al teatro, quindi con tutto quello che comporta un andare a teatro, uno stare insieme. Questa idea l'abbiamo subito condivisa con degli amici che Veronica Cornetti di Roma, che subito era come se stesse lì, già nello stesso nostro territorio di fantasia, di immaginario, e che ci ha detto facciamolo insieme. E da questa idea di fare un unico festival che partisse da Roma e arrivasse nelle Marche, abbiamo pensato anche che fosse giusto segnare il passaggio, di segnarlo, già era nelle nostre menti di fare qualcosa che riguardasse il centro Italia, questi Appennini un po' dimenticati da noi stessi che ci viviamo in primis, mai valorizzati a sufficienza, e quindi abbiamo coinvolto anche Fontemaggiore, che anche loro stavano lì in quel momento di anche lasciare un po' stare il teatro e andare all'aperto, forse anche il momento che abbiamo vissuto ha portato in questa direzione, e quindi partirà da Roma il festival, ma partirà anche una carovana di cicloartisti guidati da Andrea Satta dei Tè de Bois, che partiranno da Roma, faranno tappa a Spello, dove ci sarà un'altra programmazione di festival organizzata da Fontemaggiore, e finirà appunto ad Arcevia nel nostro teatro, dove c'è la parte finale di programmazione. Ecco. Quante saranno le tappe? Le tappe principali saranno appunto tre: Roma, Spello ed Arcevia, ma anche questo viaggio in bicicletta sarà fatto in bici e in treno, e quindi avrà tante altre micro tappe, stazioni ferroviarie della nostra via Flaminia, così storica e povera anche nel suo essere antica. Quindi ci saranno piccole tappe nella stazione di Fabriano, nella stazione di Foligno, e poi stiamo costruendo piano piano, stanno arrivando delle piccole tappe, ma giusto per fermarsi a fare un saluto, perché il viaggio già sarà abbastanza impegnativo. Oltretutto noi ad Arcevia non saremo soltanto lì, ma faremo anche un tour intorno a questo paesaggio, in questo paese, che è veramente un comune molto vasto, ha dentro altre, non ricordo il numero esatto di frazioni, tipo 8 frazioni. Il teatro a motore, che è un progetto del Teatro Verde di Roma, se ne andrà per questi paesini, tipo a Loretello, Castiglioni, ad Avacelli, andrà ad incontrare il pubblico più giovane, i bambini. Per esempio ci sono paesi dove ci sono 15 bambini, e lì è difficile fare una programmazione teatrale, ma raggiungere questi posti ci sembrava prioritario, ecco, e abbiamo trovato il modo per arrivarci. Nel complesso quanti eventi avete immaginato? Ogni teatro ha la sua programmazione in una maniera, diciamo, un po' condivisa ma anche indipendente, e sono all'incirca tra i 40 e i 50 eventi in questa settimana. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? La programmazione di ciascuna tappa è presente nei siti di ciascuna compagnia, quindi per esempio a partire dalla nostra di Arcevia, che è l'ultima, sul sito ATGTP, un po' difficile da dire, è un acronimo che sta per Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, trovate il programma di Arcevia, mentre nel sito www.teatroverde.it trovate le informazioni di Roma, e invece nel sito fontemaggiore.it potrete trovare la programmazione di Spello. Stravagante, Festival dei Paesaggi dal 9 al 19 settembre 2021, un saluto e un ringraziamento ad uno degli ideatori, Simone Guerro. A presto! A prestissimo, c'è anche la pagina Facebook di Stravagante, che è più facile da seguire sicuramente, quindi meglio incontrarsi lì. Con Oriana Rizzuto, project manager di Garbatella e Magis, memoria tra passato, presente e futuro, presso la galleria 10B Fotografi e i lotti del quartiere, dall'11 al 25 settembre 2021. Oriana, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a te Federico, buongiorno ai radioascoltatori. Ne avevamo già parlato per la scorsa edizione, ci racconti? Grazie, sì, questo è un altro capitolo di Garbatella Images in occasione della rassegna dell'estate romana 2021 sostenuta dal Comune di Roma. Questa è un'edizione speciale per noi, un'edizione che continua appunto l'edizione precedente che è sulla memoria, la memoria tra passato, presente e futuro. Quest'anno affrontiamo il tema del presente, lo abbiamo affrontato grazie a diversi artisti. Abbiamo avuto il piacere di avere in residenza a Garbatella due artisti molto bravi e noti a livello sia nazionale che internazionale. Uno è un super big che è Pep Bonet, è un fotografo spagnolo dell'agenzia NUR e che ha immortalato proprio i lozzi di Garbatella, ma soprattutto la relazione che c'è fra gli abitanti e i giardini e le piante, no? Sappiamo quanto sia particolare la struttura dei lozzi di Garbatella proprio per questa idea, no? Di città giardino. Un quartiere che è costellato per fortuna da diverse piante, anche tante piante tropicali, no? Piante che sembrano fuori dal nostro habitat, invece che dialogano molto bene proprio con il territorio e con gli abitanti. Quindi ecco, Pep Bonet ha affrontato questo rapporto fra gli abitanti e i giardini. Proprio la relazione tra spazio e tempo è stato anche il tema che ha affrontato Giacomo Infantino, giovane fotografo, diciamo un fan prodigio, perché insomma ha fatto diversi già lavori, vinto diversi premi, e anche lui con una tecnica molto particolare attraverso luci, ombre, schermi ha immortalato Garbatella e i suoi protagonisti all'interno della sua macchina fotografica. Poi ci sarà una personale di Claudio Imperi, fotografo romano, che è tornato nel lotto dove ha abitato, che è il lotto 16, e quindi da lì ha voluto ripercorrere un po' le fasi della sua vita e le fasi del rapporto che ha stabilito con gli abitanti di quel lotto. Nel complesso quante sono le opere esposte? Parecchie, anzi ci tengo a precisare, nel senso che la mostra è formata da due parti sostanzialmente, cioè una parte outdoor e nei lotti, quindi ci sono ben quattro lotti, il 16, il 24, il 29 e il 30, che chi vuole avere maggiori informazioni su dove si trovano, sul nostro sito 10B Fotografi trova tutte le indicazioni oppure sui nostri social. Quindi la mostra è divisa in due parti, una parte visibile ogni giorno, sempre, apertamente, liberamente a tutti, proprio fuori ai lotti. Invece la parte più artistica, nel senso che stampe di in fine art con le cornici e gli allestimenti proprio da galleria, saranno presso la 10B Fotografi a via San Lorenzo da Brindisi 10, ovviamente sempre a Garbatella. Quindi ecco, invitiamo tutti a venire sabato all'inaugurazione, ma anche nei giorni successivi, perché appunto la galleria è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 18 alle 20. Cosa fondamentale è che ovviamente occorre prenotarsi per i vari motivi di contingentamento, che è importante che abbia almeno per la parte interna si deve essere un link di Green Pass, e ci sono tante sorprese. Magari qualcuna la posso già svelare, nel senso c'è anche un cortometraggio di Francesco Zizzola, che è il curatore e l'ideatore, oltre che un fotografo di fama internazionale e proprietario della galleria, che quest'anno, insieme ad uno dei protagonisti di Garbatella, il piccolo Giulio, ha fatto questo cortometraggio sulla presenza, sulla storia di Garbatella. E poi un allestimento molto particolare, insomma tante cose, cioè anche se l'edizione si ripete, in realtà è un ripetersi, è un rinnovarsi. Nei quattro lotti le opere saranno esposte in più luoghi. Esatto, sì, i protagonisti anche di Garbatella Images sono gli stenditoi, quindi l'allestimento è all'interno degli stenditoi dei lotti, tra i panni stesi e gli abitanti che vi abitano, che circolano. Infatti noi faremo le visite guidate tutti i sabati alle ore 18, sempre su prenotazione, perché ci saranno appunto le liste guidate insieme sia agli artisti sia a due esperti di Garbatella, che sono la professoressa Francesca Romana Stabile dell'Università di Roma 3 e il giornalista Claudio Daguanno, che accompagneranno il pubblico tra i lotti di Garbatella, proprio portandoli a scoprire quali sono le caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche, sia dei luoghi sia appunto delle fotografie che vi sono esposte. Che tipo di soggetti sono? Variegati? Sono variegati. Giacomo Infantino ha una tecnica particolare e una sua poetica, nel senso che ritrae molto spesso l'uomo in relazione alla natura. Quindi ci sono questi paesaggi molto belli che si vede che Garbatella, ma possono quasi non essere, cioè sono talmente anche onirici, se così si può dire. Quindi ci sono dei personaggi all'interno di questi, sembrano dei set proprio cinematografici, perché questi alberi, queste palme, questi fiori con queste luci particolari sembrano delle scenografie quasi artificiali, invece proprio è la nostra Garbatella. Invece gli spazi di Pat Bonnet sono dei ritratti molto poetici e anche lì in relazione c'è sempre l'uomo con la natura. Quindi c'è sempre un abitante, un soggetto che si relaziona, che dialoga con una pianta. Sono davvero molto belli e molto toccanti, perché proprio c'è questo rapporto quasi intimo in un abbraccio tra l'abitante e l'albero sotto casa, oppure nel gesto in cui ci si avvicina a odorare un fiore. Davvero molto belli. Mentre Claudio Imperi poi invece ha fatto una sorta di un po' reportage quasi autobiografico, che appunto riguarda la sua vita all'interno del lotto, quindi proprio da quando era bambino, i suoi luoghi dove è nato e cresciuto. È un dialogo appunto molto narrativo della sua vita al lotto 16, sempre ovviamente liberamente disponibile, accessibile, perché tutta la stampa è in PVC. Poi, come dicevamo, c'è il cortometraggio che quest'anno è incentrato sul presente. L'anno scorso abbiamo fatto le memorie di Garbatella, quindi abbiamo fatto un laboratorio di ricerca sui video storici della Garbatella storica, quindi facendo ricerche all'Istituto Luce. Invece quest'anno c'è proprio una nuova produzione di video sul presente, sulle nuove generazioni. Quindi c'è il piccolo Giulio che va in giro per Garbatella, sarà davvero sorprendente vederlo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? www.10bfotografi.com per iscriversi alle visite guidate, per venire in galleria, la mail è info@10bfotografi.com e poi social sia Instagram che Facebook, appunto 10bfotografi. Garbatella Images, memoria tra passato, presente e futuro, presso la galleria 10B Fotografi e i lotti del quartiere, dall'11 al 25 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento alla project manager Oriana Rizzuto. A presto! Grazie, grazie a tutti, grazie Federico. Con Maria Palazzesi di Archivia per presentare la rassegna di performance poetica musicale visiva Women's Poetic Action. A Roma, la Casa Internazionale delle Donne, 7 appuntamenti a partire dal 6 luglio fino al 28 settembre 2021. Maria, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a te e ugualmente buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici. Grazie per questo spazio che ci consenti per parlare di una rassegna a cui teniamo molto. Descrivicela un po'. L'idea di una rassegna dedicata alla poesia performativa non è del tutto nuova per quanto ci riguarda. Sappiamo benissimo che è un qualcosa di un po' particolare, riguarda un settore dello spettacolo vero e proprio, della creatività artistica. un po' speciale, ma ha anche delle tradizioni antichissime, perché se ci pensiamo affonda le sue radici appunto nelle tradizioni poetiche orali e poi via via su nel corso del tempo e dei secoli fino ad arrivare ad oggi, passando per la lirica ma anche passando attraverso altre forme di poesia anche più popolare e non solo quella colta. Abbiamo pensato di organizzare, proprio a partire da queste esperienze che ancora oggi sono molto attuali, una rassegna che le mettesse in evidenza, che dedicasse loro uno spazio particolare, uno spazio di parola che si facesse in qualche modo anche spazio di spettacolo, proprio per la capacità che chi fa poesia performativa, e quindi nel nostro caso saranno tutte delle donne poete, consente a se stesse e al proprio pubblico per dire cose attraverso vocalizzazioni, quindi assolutamente senza altri strumenti che quelli propri naturali che ci sono, oppure anche attraverso una serie di altre strumentazioni, perché in questo senso il campo è vastissimo e lascia ampia libertà, che passano al loop, alla proiezioni video, a sonori elettronici, a giocolerie, e quindi diciamo è un'esperienza quella che vogliamo mettere in scena, che noi speriamo il pubblico apprezzi e al quale in qualche modo partecipi anche attivamente, perché spesso questo tipo di proposta prevede anche un intervento del pubblico, ecco. Facciamo un po' una panoramica degli appuntamenti? La nostra rassegna comincia con due performance su scena, Manuela Dago, bolognese, e Francesca Genti, milanese. Sono due poete che da tempo lavorano su questo piano, lo fanno anche attraverso una serie di proposte editoriali che le accompagnano nel loro fare e che sono, diciamo così, specializzate in due generi interessanti. La prima, Manuela Dago, in scena con la quale ci sarà anche un'altra attrice importante, Clara Galante, lavorerà a partire dalla creazione immediata e sua proiezione di collage, accompagnato da un sonoro che rivisita un'operazione che prende vita anche immediatamente sulla base degli spunti che i collage stessi consentono, dunque anche una poesia all'istinta. Francesca Genti, che ci consegna uno spettacolo dal titolo Jukebox all'ossigeno, invece fa un lungo viaggio interiore che passa attraverso l'infanzia, l'amore, il corpo, la relazione con gli animali, e lo fa attraverso forme di terracotta scritte che vengono anche diffuse, ecco qua è il pubblico che arriva nuovamente in primis, che vengono date al pubblico che possa seguirle ma anche intervenire su di esse. Le serate sono 7, come dicevi tu prima, 2 sono a luglio, questa prima serata che inaugura questa rassegna, una seconda serata ci sarà con Rosaria Lo Russo il 20 di questo mese, e poi riprenderemo a settembre con una performance poetico-concertistica di Valeria Vaglio. Avremo poi in scena Anna Segre e Gaia Casanova. Tra l'altro mi piace qui dire che Gaia Casanova farà un lavoro di performance accompagnato da un video che verrà girato all'interno di quella che erano le celle delle donne. La prigione era all'interno dell'edificio del Buon Pastore, che oggi è la Casa Internazionale delle Donne, dunque da qui uno spunto anche che ha fatto sì che Gaia volesse in qualche modo evidenziare anche un interno esterno nella storia di una società, oltre che di una singola persona come lei. Avremo una serata slam dedicata dunque alla poesia da scontro, con una maestra di cerimonia e 6 partecipanti che si alterneranno sul palco e verranno giudicate nelle loro performance poetiche, che hanno delle regole precise dal pubblico e che viene costruita attraverso la collaborazione con un collettivo giovane romano, Wow, che a noi piace moltissimo portare in scena e su cui puntiamo molto. Avremo poi un intervento importante che seguirà questi di cui ti ho parlato e che vedrà in scena Francesca Gironi, che viene da Pescara, e Serena Di Biase, che lavora molto la prima con la giocoleria, la seconda invece proprio con tutto ciò che è elettronico, il loop e il sonoro. E infine chiuderemo con Maria Grazia Calandrone, che porterà in scena una sua performance poetica molto bella, accompagnata da una batteria dal vivo, con il suono in particolare della sua voce e delle sue vocalizzazioni. Sono, come dicevi tu prima, 7 incontri. Il calendario ovviamente di questi incontri può essere rinvenuto sul sito di Archivia, che promuove questo progetto, che è stato fatto proprio dalla Regione Lazio, e anche questa è una cosa che ci fa piacere dire, e lo si potrà anche ritrovare ovviamente attraverso il sito della Casa Internazionale delle Donne, che accompagna i nostri incontri e dà anche loro voce attraverso la pubblicazione via via degli appuntamenti che si susseguiranno. Dunque, insomma, diciamo, è una rassegna questa che vuole riprendere da un lato un qualcosa che appartiene molto alla tradizione, anche la più antica, ma la vuol fare anche in questa veste che è capace di innovare, di proporre altrimenti, di costruire percorsi di creatività, e che dunque per questo motivo fa della performance un suo aspetto importante. La rassegna di performance poetica musicale visiva Women's Poetic Action a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, 7 appuntamenti dal 6 luglio al 28 settembre 2021. Un saluto e ringraziamento a Maria Palazzesi di Archivia. Un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie, grazie a voi per questo spazio, grazie per gli auguri che ci fate, viva il lupo, e insomma andiamo avanti, poi ne riparleremo semmai, se vorrai, per capire come è stata accolta questa proposta. Con Selena Ambrogi di A Teatro per presentare il progetto Oltre la Città. Ben trovata! Ciao Federico! Partiamo dalla realtà di A Teatro, per chi non la conoscesse, ce la racconti? A Teatro è un'associazione culturale con sede a Milano. Sostanzialmente si occupa della promozione della cultura teatrale, sia per quanto riguarda il lato artistico, sia soprattutto con un focus per quanto invece riguarda l'aspetto organizzativo. Ecco, in particolare tende a favorire lo studio, la ricerca e anche la sensibilizzazione proprio del pubblico nei confronti dello spettacolo dal vivo e delle arti anche in generale, insomma. È un'associazione che è stata fondata da Mimma Gallina, Oliviero Ponte di Pino e Anna Maria Monteverdi e opera ormai da una decina di anni, ecco. Arriviamo al progetto, di cosa si tratta? Il progetto di cui ci stiamo occupando adesso si chiama Oltre la Città. Oltre la Città si inserisce nell'indagine di A Teatro che riguarda le buone pratiche del teatro. Intendiamo come buone pratiche degli esempi di enti o strutture virtuose che operano nel contesto appunto dello spettacolo dal vivo e che riescono appunto a mettere in atto delle pratiche funzionanti e soprattutto replicabili anche dalle altre realtà. Quindi sostanzialmente è un'indagine su questi spazi per non tanto fare una classifica. L'interesse invece è trovare delle idee che possono essere condivise, anche perché no, proprio rubate, tra le varie realtà per far scaturire una sorta di circolo virtuoso, ecco, fra chi opera nel settore. Quest'anno in particolare il focus è sulla rigenerazione urbana e sull'attivazione della cittadinanza. Quali esempi virtuosi avete individuato lungo questi mesi? Per adesso abbiamo individuato il Teatro Biblioteca Quarticciolo, che è una struttura di Roma, la Casa delle Arti, il Centro Permanente per le Arti di Belluno, la Lavanderia a Vapore di Collegno, Industria Scenica, che ha sede a Vimodrone, e Minima Teatralia, invece, che si trova a Milano. Per ora queste qua sono le realtà che sicuramente sono state prese in considerazione, però siamo ancora in fase di ricerca. Tant'è che se qualcuno volesse suggerirci delle altre strutture, degli altri progetti che hanno questa attenzione particolare, sia all'attivazione della cittadinanza, sia alla rigenerazione urbana, è libero di farlo nei prossimi 15 giorni. Più o meno, ecco. Come si caratterizzano queste realtà che hai citato? Hanno appunto tutte quante la particolarità di non gestire unicamente una programmazione teatrale o comunque di spettacolo dal vivo, ma di mettere in atto una serie di attività collaterali che in alcuni casi sono direttamente collegate a quelli che poi sono gli spettacoli che si possono vedere in teatro, in altri casi invece sono delle attività pensate per rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio, anche perché molte di queste strutture non sono centralissime, ad esempio come il Quarticciolo di Roma si trova in un contesto periferico, ma anche la stessa Lavanderia a Vapore si trova a Collegno, che è fuori Torino sostanzialmente. Quindi la particolarità è anche la decisione di queste strutture di offrire dei servizi culturali in delle zone non sempre facilmente anche collegate al resto delle città. In alcuni casi hanno ristrutturato e riattivato spazi inutilizzati. Sì, sempre parlando ad esempio di Quarticciolo e Lavanderia a Vapore, Quarticciolo si trattava di un ex mercato che era caduto in disuso e che è stato completamente ristrutturato. La Lavanderia a Vapore invece era appunto, come dice il nome che poi hanno voluto mantenere, era la Lavanderia a Vapore dell'ex ospedale psichiatrico di Collegno. Quindi si tratta di strutture con una funzione completamente diversa in passato, che sono state ristrutturate e poi prese in gestione da queste associazioni. Difatti la maggior parte di queste associazioni ha voluto anche porre l'accento su quella che era in passato la vocazione dell'edificio per ripensare completamente questo spazio e renderlo proprio alla cittadinanza. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete seguirci su Facebook, potete iscrivervi alla nostra newsletter, trovate la casella per l'iscrizione sul sito www.ateatro.it, oppure potete seguire anche il Caffè di Bolzano, che è un'altra attività collaterale di A Teatro, insomma. Se poi siete particolarmente interessati e siete magari degli operatori del settore, potete anche pensare di associarvi, potete trovare anche lì le informazioni sul sito. Importante, volevo anche ringraziare il Ministero della Cultura e la Fondazione Cariplo, senza la quale non sarebbe possibile portare avanti questi progetti. Il progetto Oltre la Città, un saluto e un ringraziamento a Selena Ambrogi di A Teatro. A presto! A presto! Siamo all'agenda della settimana teatrale romana e non solo, il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica che torniamo insieme in attività dopo la pausa estiva. Ciao Simone. Ciao a tutti, eccoci pronti a ricominciare alla grande. Possiamo andare a dare un'occhiata a che cosa propone già questa settimana. Abbiamo appena salutato l'edizione di Short Theater che si è conclusa questo ultimo weekend negli spazi del Mattatoio, la Pelanda e al Teatro India, e già subito si apre con le nuove cose che ci offre questa stagione. Partiamo un po' piano, dai, insomma, ecco, l'Istituto Italiano di Studi Germanici presenta Theater, teatro, sono delle letture all'aperto dal 17 fino al 26 settembre alle ore 19 e saranno presso appunto l'Istituto Italiano di Studi Germanici, che vedrà insomma vari attori come Antonella Britti, Manuela Mandracchia, Federica Marchettini, Francesco Bonomo, Ruben Rigillo, che andranno a leggere e portare dei testi teatrali dei maggiori drammaturghi del XX secolo come Brecht, Ibsen, Schiller, Schnitzler, e contestualizzati insomma da esperti di della materia come germanisti, traduttori come Luca Crescenzi, Francesco Fiorentino, Bruno Berni ed Elisabeth Galvan, che è una germanista, mentre invece Bruno Berni è uno scandinavista. Quindi andiamo all'Istituto Italiano di Studi Germanici per queste letture all'aperto di testi legati insomma anche alla tradizione nordica. Andiamo anche questa settimana all'inizio dei quartieri dell'arte, che è appunto il festival del direttore artistico Gianmaria Cervo, che presenterà già da questa settimana un programma interessante. Andiamo a vedere insieme il programma di quest'anno, 18 e 19 settembre, subito con Alexandros Memetà e Ioris Petrillo, che presentano un lavoro con in scena Beatrice Feli e si chiama Memorie di un ciabattino. Seguirà la prima assoluta di Lazzari Felice, Storie di Posteggia, di Lorenzo Fodarella e Marco Vidino, con un bel po' di attori, la regia è dello stesso Lorenzo Fodarella. 19 settembre ancora, con Mare Nero di Gianni Paris, la regia di Daniele Salvo, e poi insomma andremo a vedere altre cose nelle settimane successive. Mare di un ciabattino è ispirato a Giulio Cesare di Shakespeare, che racconta una storia all'interno di una storia più grande, è la vicenda della morte di Giulio Cesare. Lo spettacolo ripercorre gli ultimi tre giorni di vita di Giulio Cesare e vista dalla prospettiva di questo giovane ciabattino. Per quanto riguarda Lazzari Felici, siamo all'interno della tradizione napoletana, una storia di posteggiatori ambientata nella Napoli del nuovo secolo. Posteggiatori, ovvero sia la posteggia napoletana, la canzone napoletana, in una Napoli che oggi è multiculturale, questo spaccato contemporaneo sulla città di Napoli, in una tradizione che si avvicina pian piano all'epoca contemporanea. Mentre invece il Mare Nero di Gianni Paris è un viaggio della speranza su una carretta del mare. un gruppo di uomini, donne e bambini africani investe i propri risparmi nelle mani di un, e mette nelle mani di un delinquente che li carica su una barchetta e li abbandona nel Mediterraneo. Questa è la storia di tante storie anche qui, è inutile continuare il racconto perché c'è solo da andarlo a vedere ai quartieri dell'arte a Viterbo per questa 25esima edizione. Questa settimana andremo anche al Teatro di Documenti con il Mite Inferno di Anna Ceravolo, è un lavoro dedicato all'anniversario dei 700 anni della morte di Dante, questo Mite Inferno sarà in scena questa sera il 14, 16 e 17 settembre con appunto la regia e il testo della stessa Anna Ceravolo. Andiamo ancora al Teatro Biblioteca Quarticciolo, perché dal 17 fino al 26 settembre l'anteprima di stagione per presentare Fake Folk Andrea Cosentino, che è il progetto speciale 2021 nel Parchetto Modesto di Veglia, è un lavoro con anche Alessandra De Luca, Lorenzo Lem, Nexus e Dario Aggioli, sarà un lavoro interessante, sono quattro repliche dello spettacolo con ospiti speciali che saranno la Rustica X-Band, Mate Music, Sanchari Sanghetian del Bangladesh e la Drag Queen Karma B e Oli Dolores. Cosa ho detto? Non ho capito bene neanche io, ma comunque andremo a vedere questo spettacolo con degli ospiti, è in realtà una sorta di grande circo extracontemporaneo, potremmo definirlo così, un rito celebrativo festoso folcloristico, quello delle feste di paese, che viene ricreato per appunto un nuovo tipo di festa di paese molto più moderna. Andrea Cosentino va a recuperare questa tradizione per attualizzare un po' nel tempo della tecnologia e della performance quello che è appunto una festa tradizionale, una finta festa tradizionale per l'apertura del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi 17-19 settembre Teatro degli Audaci per Alieni Nati, scritto e diretto da Alessandro Giova, un gioco di parole per dire appunto alieni, nati e alienati, esprime la condizione del sentirsi alieno, sarà appunto al Teatro degli Audaci 17-19 settembre. Questa è la settimana anche di questo festival che si chiama Stravagante ed è un festival che si fa tra questa regione e le Marche, quindi il passaggio dal Tirreno all'Adriatico. Allora, mercoledì 15 settembre ci si sposta verso le Marche ed è interessante perché è tutto un festival che avviene in bicicletta e con dei cammini speciali all'interno, insomma, dei tracciati che vanno da una parte all'altra, dal Tirreno, dalla parte nostra del Lazio, fino alle Marche, quindi attraverso dei trekking a piedi o dei passaggi in bicicletta o attraverso il percorso in treno regionale, si andrà da Roma, una carovana che attraverserà da Roma fino alle Marche. Soprattutto, ecco, giovedì 16 si partirà dal Teatro di Villa Panfili, guidati da Andrea Satta, artisti ciclisti che arriveranno a Terni in bici e treno e percorrono la ciclabile Martana fino a Foligno. Questo è interessante, questo procedimento, insomma, abbastanza originale. Quindi per andare a capirci qualcosa direi di andare a cercare appunto Stravagante Festival, il Festival dei Paesaggi, che sarà fino al 19 settembre tra Roma ed Arcevia. Andiamo anche sotto l'Angelo di Castello, perché a Castel Sant'Angelo ancora continua questa manifestazione. A Castel Sant'Angelo sabato 18 settembre c'è una guida immaginaria, un progetto di Blue Motion scritto da Giorgina P e diretto da lei con Gabriele Portoghese, che è anche voce guida del progetto, una guida immaginaria che verrà fatta esclusivamente in cuffia e sarà appunto la guida del Museo dell'Acropoli, una Grecia inaspettata. Il collettivo Angelo Mai, che appunto cura l'ambiente sonoro, ci porterà attraverso questo viaggio con la mente e la voce di Gabriele Portoghese e poi Marco Cavalco, di Silvia De Fanti, Giorgina P e Laura Pizzirani. Questo per quanto riguarda sotto l'Angelo di Castello, ma appunto forse i tre appuntamenti della settimana che vado ad elencare sono i seguenti: 17 e 26 settembre negli spazi urbani dell'isola Fredonale, Largo Spartaco al Quadraro, e poi il 2-3 ottobre saremo a Toffi, in provincia di Rieti, è l'edizione di quest'anno di Attraversamenti Multipli di Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Paco Graziani. Si tratta di un festival appunto che entra all'interno degli spazi urbani. Ci sarà in apertura la performance Asta al buio di Antonio Rezza come banditore di eccezione, che appunto il 17 settembre alle ore 21 aprirà, distruggendo in qualche modo il rapporto con il pubblico, come sempre a suo modo, mentre invece ci sarà una lezione aperta, performance partecipata a Flamenco per Tutti, proposta da Giorgia Celli il 19 settembre, e ci sarà una replica anche il 26, ma sarà alle 18.30 in entrambi i casi. Questi gli appuntamenti di questa settimana per appunto il festival Attraversamenti Multipli, ma anche appunto vediamo Carlo Massari, CSC Company, che presenta il 17 settembre la performance di danza e teatro tipico Mesh Up, Roberto Latini il 19 con In Exitu, uno spettacolo che è un corpo a corpo con la lirica di Giovanni Testori, ne parleremo ancora, questo è un festival che seguiremo abbastanza da vicino, quindi appuntamento intanto è il dal 17 in poi Attraversamenti Multipli a Largo Spartaco e spazi nei dintorni. Secondo appuntamento imperdibile che fino al 23 di settembre negli spazi del Teatro India Tutto Brucia, i Motus, Daniele Nicolò e Enrico Casagrande, la importante compagnia riminese che porta sul palco del Teatro India questo spettacolo, una riscrittura delle Troiane di Euripide attraverso le parole di altri grandi artisti, grandi scrittori, per aggiungere un elemento nello scavo attraverso le figure del tragico. Le Troiane inizia con una fine, il conflitto è alle spalle, Ilio è già stata distrutta, ciò che resta tra le rovine sono gli spettri del passato che ancora agitano il presente. Quindi questo futuro che è incerto e pericoloso è ancora da immaginare. È chiaro che la pandemia, il disastro climatico, le migrazioni, questo nostro tempo entrano in un gioco di relazione con il passato e che va ad attualizzare le Troiane di Euripide fino ai nostri giorni. Alle ore 20 tutti i giorni fino al 23 settembre agli spazi del Teatro India. Mentre invece questa settimana inizia il Roma Europa Festival, di cui parleremo molto nei mesi che verranno. All'Auditorium Parco della Musica l'apertura sarà affidata a Möbius con la compagnia XY con Rashid Uramdan, 14-16 settembre per questo lavoro, una delle compagnie più acclamate in Francia e nel mondo, che si ispira ai movimenti degli stormi di rondini, dei banchi di pesci e al mutare della natura. Rashid Uramdan, complice di questa avventura, 19 performer sono in scena in una coreografia vorticosa fatta di grandi voli spericolati, nubi e torri di corpi e del loro vertiginoso disparsi, quindi danza e acrobazia, sogno e gravità si incontrano per inaugurare questa 36esima edizione del Roma Europa Festival, quindi 14-16 settembre all'Auditorium Parco della Musica. 17-19 invece l'occasione per ritrovare il regista ungherese Cornel Mundruzzo, che scotta in scena un testo di Kata Weber, Peace of a Woman, recentemente acclamato in una versione filmica, linguaggio cinematografico, appunto i primi piani, il realismo dei dettagli che sono già parte dello spettacolo, già realizzato prima del film, e per la prima volta arriva in Italia e porta sulla scena questa storia di Maya, trentenne che ha le prese con le conseguenze di una tragedia personale e con la pressione su di lei esercitata dalla famiglia e dalle aspettative sociali legate alla sua identità. La possiamo guardare nella sua vita domestica a Varsavia in una riunione familiare che sembra mostrare i conflitti e le contraddizioni di un'intera società. Questo Cornel Mundruzzo porterà dal 17 al 19 negli spazi del Teatro Argentina, mentre invece si torna all'Auditorium per chiudere questa settimana in prima nazionale Israel Galvan, Nino de Elche con Meliso, Meliso Doble all'Auditorium Parco della Musica 18-19 settembre. Questo danzatore, coreografo Israel Galvan, ci porta in una reinterpretazione contemporanea del flamenco insieme al musicista Nino de Elche, un'esplosione surrealista di tutti i modelli tradizionali legati a questa pratica, un incontro quindi tra l'energia del corpo e quella della voce, del campo, del canto, scene e costumi non ci saranno, ma ci sarà una grande, ingombrante eredità culturale e incendiaria che sarà sul palco assieme a questa danza molto invece contemporanea. Quindi il legame tra questo flamenco e ciò che il flamenco ha prodotto nella nostra epoca contemporanea è ciò che muove Israel Galvan e Nino de Elche